Tonino Carramone è stato un omofobo, ma adesso si decompone dentro un sarcofago. Chissà se è rimasto qualcuno e risponde al citofono. Ciao amore, come stai? Tonino Carramone amava il microfono. Metti stop, metti pausa, metti play. Caro nonno, sono diventato gay. È contro natura, è contro lo Stato, è contro i principi del Vaticano. È contro natura, è contro lo Stato. Attento coglione, sei contro mano. È contro natura, è contro lo Stato, è contro i principi del Vaticano. È contro natura, è contro lo Stato, è contro i principi del Vaticano. Mi spiace deludere il tuo preconcetto di plastica. Se solo morissi faresti una vita fantastica. Parentesi, questa canzone può vincere un festival. C'è dentro un vecchio, un negro, un ricchione e una lesbica. Metti stop, metti pausa, metti play. Caro nonno, sono diventato gay. Tonino Carramone è stato un omofobo, ma adesso si decompone dentro un sarcofago. Mi spiace deludere il tuo preconcetto di plastica. Se solo morissi faresti una vita fantastica.